Ciao, sono Massimo e chiamo da Vasto e faccio il farmacista e lavoro in un gruppo ospedaliero e nonché sono sommelier e nutrizionista e quindi mi prenderò cura della Lara a tutti i livelli, da quando si sveglia fino a quando andrà a dormire.